In effetti la situazione si è aggravata. Diciamo sotto diversi punti di vista, perché in generale anche perché c'è la crisi, così, no? E quindi ecco, c'è questa situazione che è grave, molto grave, cioè l'economia è sprofondata, siamo crollati tutti, delle banche sono fallite, altre banche stanno per fallire, altre non sono fallite semplicemente perché lo Stato è intervenuto. Quindi la prima cosa che voglio dire è bei liberisti di merda, perché in effetti questi che sono al governo, tutti di destra, in tutti i paesi europei, tranne qualche rara eccezione, Andorra, tipo San Marino, ma a parte questi piccolini che non contano niente, insomma, nel loro territorio contano tanto, però a livello generale, insomma. Comunque, beh. E, no, e questi governi di destra praticamente sono liberisti del cacchio, cioè, diciamoci le cose come stanno. Senza girarci troppo intorno, sono liberisti del cacchio, perché voglio dire, questi sono peggio di Baffone, nel senso che crollano le borse e li nazionalizzano. Vabbè, avete abbaiato per anni contro socialisti che nazionalizzavano tutto, non volevano liberalizzare niente, neanche l'acqua potabile, che magari quella effettivamente aveva un senso di tenere l'acquedotto pubblico. Vi siete abbaiati finché vi ha fatto comodo per poter finanziare i vostri amici. Fa fare affari ai vostri amici miliardari, alle vostre amiche banche, ai vostri amici porci, finanzieri, finanziatori e faccendieri di tutti i tipi. Poi, quando il sistema è crollato, perché evidentemente non poteva continuare a reggere in questa situazione di sporco e schifoso profittamento generale senza regole, il sistema è crollato, anche proprio perché anche voi non avete voluto le regole, visto che ma abbaiate sempre contro qualunque genere di regola che vi venga imposta. Ora che il sistema è crollato, nazionalizzate le banche in perdita. Cioè, mi sembra veramente un capolavoro di comunismo, di socialismo del reale, cioè quel vecchio socialismo proprio dell'Unione Sovietica, quando nazionalizzarono tutto dopo il 17, nel senso. Cioè, questa è una cosa veramente da fare schifo. Cioè, fate schifo, dovete rendervi conto che fate schifo, peggio dei comunisti e 17 siete. Se non che quelli hanno fatto tutto quel macello che hanno fatto, tutti i gulag e quelle troiate là. Se non fosse per quello, siete praticamente peggio di loro, perché perlomeno loro avevano un principio di motivazione generale, volevano fare uno Stato comunista, nel senso, è chiaro che poi nazionalizzano, con lo Stato comunista che vuoi fare? Nazionalizzi, è chiaro, no? Però voglio dire, quello era un discorso sbagliatissimo, evidentemente catastrofico, che ha portato a dei disastri e dei problemi. Però voglio dire, era basato su un concetto generale. Voi nazionalizzate perché i vostri porci, avete fatti porci comodi per tutti questi anni, spadroneggiando a livello europeo, in tutti gli stati, colpa anche di quelle incredibili facce di merda che vanno dato il voto, perché la gente che ha votato destra, tranne una parte perlomeno di persone che avevano delle motivazioni anche positive, ma l'altra parte di gente vi ha votato semplicemente perché fa schifo come voi. Cioè, voglio dire, questa è la realtà dei fatti. Ecco, siccome siete andati al potere in tutta Europa spadroneggiando praticamente per anni, e siete andati avanti per anni giocando sulle paure della gente, giocando sul terrorismo, giocando sull'immigrazione, che praticamente è stato l'argomento con la A maiuscola che vi ha fatto andare al potere in tutti questi anni. E voi avete usato questo potere per arricchire gli amici e i vostri amici degli amici finanziatori, faccendieri, porche di società quotate alle isole Cayman. Cioè, le peggio cose siete stati capaci di farle, e adesso che il sistema è crollato per colpa vostra, solo ed esclusivamente vostra, di gente che ha protetto questi, siete protetti a vicenda, Berlusconi, Sarkozy, la Merkel, tutti praticamente siete comportati male in questa maniera. Ora che il sistema è crollato, ora nazionalizzate. Cioè, ma voi siete delle merde senza confini, voi siete solo delle merde senza confini. Non ci sono parole per definire quanto siete merde, quanto siete comunisti e quanto siete merde, peggio dei comunisti, dei socialisti del 17 nella Russia, nell'Unione Sovietica. Siete Siete delle persone che fanno profondamente schifo e ora tutto il problema di questa situazione, questo schifo si scarica su di noi. Che siamo in crisi, perché voi non siete in crisi, voi state benissimo, perché vi siete pappati tutti questi soldi che hanno girato per tutti questi anni dopo l'11 settembre, perché avete la forza, i colpi più grossi siete stati capaci di tirarli dopo l'11 settembre, quando sono cascate le regole e si sono tolti freni a qualunque genere di sfruttamento porco e schifoso che ci fosse sulla faccia della Terra, a livello proprio planetario questa cosa, nel senso tutto il pianeta è andato a destra per colpa di questo merdoso di 11 settembre, che se Bin Laden deve avere una cosa sulla coscienza, lasciando stare evidentemente l'enormità di tutta quella gente ammazzata che è stato capace di ammazzare, dopo questa cosa, subito dopo tutte le vittime ferite che ha fatto, viene questa faccenda qua, perché Bin Laden c'ha la colpa di aver mandato il pianeta a destra. Quest'uomo che tanta gente giudica scusa in qualche maniera perché combatte l'Occidente, porco e schifoso, e l'Occidente effettivamente è porco e schifoso, ma quest'uomo che tanta gente scusa e giustifica per queste cose, c'ha sulla coscienza anche il fatto di aver scagliato il paese, il pianeta a destra. Bin Laden ha scagliato il pianeta a destra. Questa è la realtà dei fatti, c'è poco da fare, così è. Se vi pare, anche se non vi pare, per cui ci siamo ciucciati questa politica di destra per tutti questi anni, e sono quasi 10 a questo punto, che ha messo in ginocchio l'orbe terraqueo, pure la città del Vaticano è stata stesa praticamente a terra. Quindi voglio dire, cioè, qui, nel senso, è proprio il massimo dello schifo, se visto fino a che punto la destra liberista non controllata da una qualunque forma di controllo, non regolamentata da una qualunque forma di regola, non disciplinata, che non si disciplina in qualcosa che possa assomigliare a disciplina. Insomma, questa destra si è dimostrato che è totalmente fallimentare. Ora questa gente, tutta questa gente a partire dalla Merkel, da Sarkozy, da Berlusconi, da tutta questa gente di destra che è praticamente in tutto il mondo, io penso anche nella Scandinavia, in Olanda, io non so, ma praticamente la destra è dappertutto in Europa. Questa gente dovrebbe scusarsi con tutti quanti noi e si dovrebbero dimettere tutti quanti in massa.